Ad alta voce, Paolo Pierobon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. PM aveva avuto notizie del fratello da Emily. Senza Emily nessuno di loro avrebbe saputo niente degli altri membri della famiglia. Lei era l'unica a intrattenere con tutti una corrispondenza regolare. Che cosa gli aveva scritto esattamente? Che Donald si trovava in un brutto pasticcio, che si era rimesso a bere e che gli avevano teso una trappola. Era convinta, infatti, che non fosse colpevole di ciò di cui lo accusavano e che gli altri avessero scaricato tutto addosso a lui. Adesso aveva finalmente l'occasione di parlarne con Donald, di fargli domande precise. E invece bisbigliava mentre si infilava un paio di mutande e ne cercava un altro nel cassetto da dare al fratello. Com'è? È una bella ragazza, alta. Ora avrà 32, 33 anni. E ti sei presentato da lei così, senza preavviso? No, ho telefonato. Volevo darle appuntamento in un drugstore, in un bar. Non ho dovuto neanche dirle chi ero. Mi ha riconosciuto subito dalla voce. Sei a Los Angeles? Mi ha chiesto. Sì. Aspetta, c'è qui un'amica che resterà da me fino alle 10. Vieni a trovarmi subito dopo. Abita in un bel appartamentino di Beverly Hills. È una donna molto elegante. Vive da sola? Fece PM senza malizia. E suo fratello, secco. Credo di sì. Era così strano pensare a quella sorella, che non avrebbe riconosciuto se l'avesse incontrata per strada e di cui non sapeva nulla. Perché non si era mai sposata? Aveva avuto degli amanti? Ha organizzato tutto lei. Sono rimasto nascosto a casa sua per diversi giorni. È stata lei a scrivere a Mildred e a mandarle dei soldi perché partisse per il Messico con i bambini. Se ha pensato a Nogales, è stato proprio perché tu abiti vicino al confine. Perché non mi ha avvertito? Donald aprì la bocca per replicare, ma ci rinunciò. PM aveva capito. Probabilmente Emily gli aveva detto: meglio non avvisarlo. Sarebbe capace di approfittarne per andare a fare un viaggetto da qualche parte. Invece, se ti presenti lì e lo metti con le spalle al muro, sarà costretto a collaborare. Per cambiare argomento chiese: Emily ha notizie di papà? Sì, le ha persino mandato una sua foto. L'ho vista. È vero che si è risposato? Sì, con una donna di 42 anni. Lui ne ha, fammici pensare, anche tu ne hai 42, più 28. Daddy ha esattamente 70 anni. Si è fatto costruire una casetta a Bradenton Beach, in Florida, dalle parti di Tampa. Emily mi ha mostrato la foto, un bel cottage in mezzo alle dune. E mica ne ha costruito uno solo. Ne possiede una serie e li affitta. Non hai un paio di pantaloni meno larghi? Va bene, mi basterà stringere la cintura. Per tornare a Emily, mi sa che il senso degli affari lo ha ereditato da papà. Se la cava alla grande. E la solitudine non sembra pesarle. La cosa che mi ha stupito di più è stata la sua eleganza. La povera Mildred l'avrebbe scambiata per una stella del cinema. C'è da dire che Mildred... Per un attimo PM si chiese se Donald non stesse parlando così, con tanta scioltezza e disinvoltura, per evitare di parlare di sé. E invece no, gli veniva davvero naturale. Stava facendo una sorta di bilancio familiare. Era incredibile vedere fino a che punto quel piccolo nucleo, formatosi in un paesino dell'Iowa, si fosse disperso. Emily a Los Angeles, PM in Arizona, Donald che cercava di raggiungere il Messico e il vecchio Ashbridge convolato a nuove nozze e trapiantato su una spiaggia in Florida. Ma evidentemente i conti non tornavano perché Donald aggrottava la fronte come se stesse cercando di capire chi mancava all'appello. «Che fine ha fatto Peggy?» chiese. PM infilò la testa nell'armadio in cui teneva le cravatte. «È stata Emily a parlartene?» Ma no, sei stato tu all'epoca a scrivermi e a parlarmi di lei. Eri a Chicago. Era una cara ragazza. È morta? No, cioè non lo so. Abbiamo divorziato tanto di quel tempo fa. Ah, ci mancava solo che adesso Donald si ergesse a giudice. Aveva un modo sconcertante di porre le domande, come se stesse procedendo alla cieca, ma ormai PM cominciava a sospettare che volesse andare a parare da qualche parte. Non vi siete sposati in chiesa? Sì, anche lei era cattolica. E Nora? È protestante. Non hai mai avuto figli? No. Peggy lavorava, vero? Sì, alla Bell Telephone. E adesso? Non lo so, immagino che lavori ancora. Che cosa voleva insinuare Donald? Che cosa avevano detto sul suo conto lui e Emily? Che non si era mai preoccupato di sapere che ne era stato di Mildred e dei bambini? E sia, probabilmente non si era comportato bene. Restava da capire se valeva davvero la pena di compromettere la propria posizione adesso. E poi il resto non era affar suo. Aveva sposato Peggy a Chicago quando aveva appena 20 anni. Aveva scritto ai genitori, al fratello, alla sorella, perché all'epoca i rapporti familiari erano ancora abbastanza stretti. Gli sembrava di ricordarselo il tono di quelle lettere e preferiva non pensarci più. A quei tempi era pieno di entusiasmo. Faceva una vita dura, anzi durissima. Non sempre riusciva a permettersi un piatto di spaghetti in un drugstore e di sicuro aveva scritto loro che Peggy lo sosteneva nelle sue ambizioni, che gli era compagna di sventura in quelle ristrettezze, che era una ragazza semplice ma coraggiosissima. Sei stato tu a chiedere il divorzio? Non mi ricordo più com'è andata di preciso. Dopo qualche anno ci siamo accorti che non funzionava. E Nora? Nora cosa? È molto ricca? Non lo so, perché me lo chiedi? Così. È molto più giovane di te? Ha 32 anni. Com'era suo primo marito? Il vecchio Chess? Ah, era vecchio. Non proprio, aveva poco più di 50 anni, ma aveva i capelli bianchissimi e tutti lo chiamavano il vecchio Chess. L'hai conosciuto? Sì, a Tucson. Era suo questo ranch? Sì, curavo io i suoi affari, ero attorney a Tucson. Ah! Più di una volta, PM aveva sentito il sangue montargli alla testa. Donald buttava lì le parole con grande disinvoltura, quasi senza dar peso a ciò che diceva, e solo in un secondo momento ti rendevi conto che a quelle parole potevi attribuire qualunque significato. Dove voleva arrivare? Sì, PM aveva divorziato da Peggy. Donald stava per caso insinuando che l'aveva uccisa per sbarazzarsene? Da non credere! E Chester Macmillan, allora? Aveva forse ucciso anche Chester Macmillan per sposare Nora? Senti, Donald, che c'è? Ho vissuto la mia vita a modo mio, come chiunque ha il diritto di fare. Ho lavorato molto. Ho lavorato tutta la vita e continuo a farlo. Non sono mai stato indulgente con me stesso e mi considero un uomo onesto. Capisci? Che c'è da capire? Sembrava quasi che fino a quel momento avesse parlato senza la minima intenzione. Adesso si erano vestiti. Non c'era più motivo di rimanere in camera da letto. Donald si era appena acceso una sigaretta, ma una sua idea in testa doveva avercela, anche se faceva finta di niente, perché a un certo punto, mentre camminava su e giù per la stanza, di colpo si fermò di fronte al fratello e alzò lentamente la testa. Un'ultima domanda, Pat. Ti ho chiesto di non chiamarmi così. Va bene, un'ultima domanda. Sei sicuro che... Parlava in tono pacato, senza alzare la voce. Tutt'altro, ma scandendo bene le sillabe. Sei sicuro di avere davvero voglia di farmi passare il confine? E, di fronte al moto di indignazione del fratello, aspetta, forse mi sono espresso male. Sei sicuro che farei tutto il possibile per riuscirci? Non ho altra scelta, mi pare. Si pentì all'istante di essersi lasciato sfuggire quella frase, ma ormai era troppo tardi per rimangiarsela. Tu sei qui, giusto? Tua moglie e i bambini sono dall'altra parte. Non penserai che possa saltarmi in mente di chiamare la polizia per dire: c'è qui mio fratello, venitelo a prendere, vero? Nel frattempo Donald lo guardava sopra pensiero e la cosa gli dava fastidio, come se si sentisse in colpa. Semplicemente non capisco la domanda. Donald trasse un sospiro. Hai ragione, non mi pare che tu abbia altra scelta. Quando il discorso tornò su questioni di tipo tecnico, fu tutto più semplice. Sei proprio sicuro che non posso guadare il fiume a cavallo, come ha fatto stamattina quel cowboy? Sicurissimo. E anche se ci riuscissi, che cosa faresti poi dall'altra parte, da solo? Secondo te resteremo davvero bloccati qui per diversi giorni? Può darsi. Così pensano tutti quelli che vivono nella valle da una vita. Come conti di farmi passare il confine? Ancora non lo so. Gli abitanti della regione, sia dalla parte messicana sia da quella americana, hanno un permesso speciale con cui passano quando vogliono. Il mio non lo guardano più da parecchio tempo. Gli ispettori mi conoscono. Il capo dell'ufficio immigrazione è mio amico e gli uomini della pattuglia si fermano spesso qui da noi a bere un bicchiere. Ti porterò con la macchina. Si ricordò dell'ultima volta che aveva varcato il confine, della pioggia battente, della collina, dell'odore delle ragazze tutte inzuppate. Sì, immagino che farò così. Per la prima volta Donald sembrò approvare. Disse: bene. Poi di nuovo fu lui a prendere l'iniziativa. Andiamo da Nora. Anche lui la chiamava già per nome. Ecco com'era andata grosso modo la mattinata. Tutto il contrario di come sarebbe dovuta andare, a rigor di logica. Il solo legittimato a fare le domande avrebbe dovuto essere PM. E chi avrebbe dovuto provare imbarazzo di fronte al fratello maggiore, di cui invocava l'aiuto e che rischiava di compromettere in modo grave, era Donald. In definitiva, rispetto alla sera prima, PM non ne sapeva molto di più. Le poche notizie che aveva gli derivavano dalle lettere di Emily, e anche le lettere di Emily erano ben diverse da come avrebbero dovuto essere, a tal punto che più di una volta gli era venuto spontaneo chiedersi come mai la sorella continuasse a scrivergli. Forse per dovere. Emily era una di quelle donne capaci di fare un mucchio di cose sgradevoli solo perché convinte che qualcuno debba farle. Gli scriveva ogni 2 o 3 mesi, chissà. Probabilmente agli altri, a Donald e al padre, scriveva più spesso. Comunque di sicuro a loro si rivolgeva con un altro tono. E adesso PM si chiedeva se per caso non avesse mantenuto rapporti epistolari anche con Peggy. Era stato il modo in cui Donald aveva parlato di Peggy a suggerirgli quell'idea. Emily, in compenso, non parlava mai a PM di ciò che lo riguardava. Non si era mai congratulata con lui dei suoi successi, né si era mai preoccupata dei sacrifici che aveva dovuto fare. Sembrava che si fosse assegnata il compito di mantenere un legame fra i membri dispersi della famiglia e che lo assolvesse scrupolosamente. Brutte notizie da Donald. Quest'anno la vendita delle patate è andata così male che forse dovrà vendere la fattoria. È proprio sfortunato. La cosa che più mi addolora e che questa situazione gli farà sicuramente tornare la tentazione di bere. Sempre Donald. Donald e Mildred, della quale parlava con lo stesso affetto. Hanno venduto la fattoria rimettendoci. Mildred è una donna molto forte. Si trasferiranno a Davenport, dove forse Donald troverà di nuovo un posto da Farnes e Kampmeyer, 2 nomi che i membri della famiglia Ashbridge avevano ben presenti. Altrove quei nomi si riducevano a 2 semplici iniziali incise su scrematrici e zangole. Farners e Kampmeyer fabbricavano quei macchinari a Fairfield e Davenport. Fairfield distava appena 10 miglia da Appleton, da casa loro, dal negozio del vecchio Ashbridge. Prima o poi tutti i ragazzi e le ragazze del paese andavano a lavorare da Farners e Kampmeyer. Dopo il liceo, diceva il vecchio Ashbridge, mi basta una parolina per farti entrare nei loro uffici. Di quel destino PM non aveva voluto saperne e aveva spiccato il volo per altri lidi. Donald, all'inizio, aveva lavorato lì da loro. Doveva essere stato a quell'epoca che aveva sposato Mildred. Probabilmente era impiegato come assistente contabile o qualcosa del genere. Poi si era messo in testa di comprarsi una fattoria. Chissà se il padre gli aveva prestato un po' del capitale necessario all'acquisto. Di sicuro non tutto, perché non era ricco e non era neanche tipo da rischiare di arrivare alla vecchiaia senza il becco di un quattrino. Donald ispirava fiducia, aveva sempre ispirato fiducia e tutti gli volevano bene. Ad ogni modo qualcuno gli aveva prestato dei soldi e Donald era stato costretto a vendere la fattoria dopo pochi raccolti andati male. E a quanto diceva Emily, aveva ripreso a bere, il che significava che gli era già capitato di bere. Ma in che periodo? E perché? La madre beveva, ma quella non era certo una buona ragione per spiegare il comportamento di Donald. Nel caso di lei, si trattava di una vera e propria malattia e i medici concordavano nel ritenerla mentalmente instabile. Era la donna più dolce, umile e generosa del mondo. Quelle crisi la coglievano all'improvviso, a distanza di diverse settimane o mesi. E quando succedeva, persino chiuderla in camera era inutile, perché riusciva sempre a trovare il modo di procurarsi da bere. Quando PM se n'era andato da casa, era già morta. E lui non si era mai dato all'alcol, non aveva mai bevuto oltre un certo limite. Per tutta la vita era stato capace di fermarsi in tempo. «Mi chiedo come riusciranno a cavarsela in città con i bambini, Donald e Mildred. È così difficile trovare una sistemazione adeguata». Vivevano in un perimetro piuttosto circoscritto: Appleton, Fairfield, Davenport. Per loro Farness e Campmeyer restavano nomi sacri. Che cosa aveva fatto Donald per quasi 20 anni? Le poche informazioni che PM aveva al riguardo gli venivano dalle lettere di Emily, perché era raro che Donald gli scrivesse. Negli ultimi 5 anni non gli aveva mai scritto direttamente. Non spettava forse a lui quella mattina fare domande? Non avrebbe dovuto essere lui a sentirsi in diritto di assumere un tono inquisitorio, di scuotere la testa e sospirare, come aveva fatto invece Donald? Nostro fratello è un debole. La solita scusa, un debole. Se sei un debole puoi permetterti qualsiasi cosa, puoi sottrarti a ogni responsabilità. Non sono in grado di mantenere la mia famiglia, scusatemi, ma sono un debole. Nell'Iowa c'è almeno 1 milione di persone che si guadagna da vivere coltivando mais o patate. Io invece no, io sono costretto a rivendere la fattoria perché ho avuto 2 brutte annate. Lo vedete, no? Che sono un debole, che non me ne va bene una. E dalle lettere di Emily, da ogni singola riga, trapelava un caloroso affetto e un'accorata compassione. Di sicuro gli aveva spedito dei soldi. Lei, che pure era una donna e che faceva affidamento sulle sue sole forze, era riuscita a trovare il modo di spedire dei soldi a Donald. Anche suo padre, laggiù in Florida, probabilmente gliene spediva sempre un po'. Perché era un debole. Beve? Ma certo, poverino, è un debole. Ammazza la gente, va in prigione, rischia di disonorare tutta la famiglia e di mandarla in rovina. È un debole. E questo debole, una bella notte, o meglio, una notte di tempesta, ti piomba addosso, a sorpresa. È bagnato fradicio, non ha neppure dei vestiti di ricambio. Sono un debole. E invece no, non lo dice e neanche lo pensa. Anzi, fa l'arrogante. Si mette comodo e in un batter d'occhio comincia a chiamare per nome la moglie di suo fratello. Si alza quando gli pare e piace, si prepara la colazione e ti si presenta davanti nudo come un verme. Insomma, che ne hai fatto di Peggy? Interroga, giudica, non emette nessun verdetto, ma si capisce bene che tra sé e sé lo formula. Quando hai cominciato ad avere successo e hai pensato che Peggy non fosse più alla tua altezza, l'hai piantata in asso. Non era vero. Per essere precisi, lui non aveva mai mollato Peggy. All'epoca del matrimonio erano entrambi molto giovani. Peggy non ne poteva più di vivere con i suoi che abitavano negli slums e litigavano dalla mattina alla sera. In realtà Peggy non capiva minimamente le ambizioni di lui. Il suo sogno era una bella casetta, con davanti una veranda e un quadratino di erba. Quando lui si era laureato, lei ne era rimasta così colpita da mettersi a piangere. Vado a cercare fortuna a San Francisco. Mentre io provo a farmi una posizione, forse è più prudente che tu conservi il tuo posto. Ecco com'era andata. Lui era partito e lei era rimasta. Poi erano passati mesi, anni. Di tanto in tanto lui le mandava un po' di soldi e un giorno le aveva fatto visita a Chicago. Lei aveva un'aria da zitella. Per dividere le spese dell'affitto si era trasferita a casa di un'amica. Erano entrambi molto a disagio e non avevano niente da dirsi. Non le aveva parlato subito della decisione che aveva preso, perché certe cose sono difficili da dire a voce. Le aveva scritto alcune settimane dopo. Ovviamente mi prendo ogni colpa e ti verserò un piccolo assegno per un ragionevole periodo di tempo. At the time to wonder why she left me. It's a slow, sad Spanish song. I knew the words, but I sang them wrong. The one I love. She's gone. How the world has changed. Watching.